innamorata. Spiega! Ha bisogno del mio cuore. Spiega! Giovane impazzato, tutto il sesso femminino è bel giovane impazzato. Ah, piccola donna, in lui tradita, qual fratante preferì? Egli è il gallo bella checca, tutte segue, tutte becca. Egli è il gallo bella checca, tutte segue, tutte becca. Egli è sola sconsiglia. Essa pure innamorata, essa pure innamorata. Ha bisogno del liquor, ha bisogno del liquor. E il gallo della checca tutte segue, tutte becca. E il gallo della checca tutte segue, tutte becca. Essa pure innamorata, essa pure innamorata. Ha bisogno del liquor, essa pure innamorata. Essa pure innamorata, essa pure innamorata. Ha bisogno del liquor, essa pure innamorata. Essa pure innamorata, essa pure innamorata. Ha bisogno del liquor, ha bisogno, ha bisogno, ha bisogno del liquor. Per cucciare in cenerir, per cucciare in cenerir, ma quanto le cambiare quei cuori, i miei vasi del disir. vedo. Un sorriso, un ricco, un cella. Ne sai più, ne sai più dell'arte mia. Un ricco, un cella. Un ricco, un cella. Si lo vedo, si lo vedo, preconcella, preconcella, questa bocca così bella, fai d'amore spesso e